l'Italia, l'Italia, le mesta, dai tempi di Scipio finita è la festa, stringiamoci a corte, l'imposta è più forte, e fino alla morte l'Italia pagò. Sì! I conti della Belva, di Carlo Alberto Carnevale Maffè e Oscar Giannino. Buongiorno cari ascoltatori di Radio 24, in questo sabato 13 dicembre, Santa Lucia è una santa che ha a che vedere con gli occhi, serve per capire, guardare lontano, ed è questo in qualche modo lo scopo della nostra trasmissione con i compari dei conti della Belva, oltre al sottoscritto Carlo Alberto Carnevale Maffè, Mario Seminerio, Francesca Del Rosso. Eccoci qua, lo ricordo a tutti, trovate i temi della trasmissione di cui parliamo oggi sul sito Radio 24, programmi, conti della Belva, trovate i temi di cui parliamo oggi, che vi riassumo per farvi telefonare, decidere a che ora, in che blocco, a seconda degli argomenti che tratteremo, potete chiamare. Il numero ve lo ricordo, 800 24 00 24, se twittate trovate su Conti della Belva il rinvio che abbiamo appena fatto, anche lì alla pagina con tutti i contenuti, e twittate, chiedeteci anche in quel modo di che cosa parlare diversamente, proponetevi, date opinioni ovviamente, insomma di che cosa parliamo oggi innanzitutto. Cominciamo con una domanda. La domanda è: facciamo anche noi come la Grecia? Cosa vuol dire facciamo anche noi come la Grecia? In sintesi, si può ripudiare il debito pubblico? È troppo e diciamo non lo paghiamo? Vedremo quali sono i modi, non i modi. Il rischio è che la Grecia vada a questo tra poco e che noi finiamo a ballare insieme alla Grecia su questa bella danza, e ci interessa A. spiegare, B. capire come la pensate voi. Si può non pagare? Secondo voi cosa succede a quel punto? Poi, secondo blocco di tema, vogliamo più donne al lavoro? Eh sì, siamo tutti buoni a dirlo, ma come si fa? Tenteremo di capirlo con chi si occupa concretamente di questa faccenda, e di chi è convinto che per esempio una maternità vale come un titolo aggiuntivo, e invece nel mercato del lavoro italiano naturalmente è un bel freno. Poi, terzo blocco di questioni, le vendite online per Natale esplodono, ma tentiamo di capire meglio, di spiegare meglio che cosa sono le vendite online, che effetto hanno, chi di voi è ancora rimasto indietro, perché, che paure ha, eccetera eccetera. Però guardiamo un po' di numeri con gli addetti ai lavori. È un fenomeno straordinario che va avanti da anni, anche noi iniziamo finalmente ad accelerare in una maniera cospicua. È un bene, e fa bene a chi ha meno, questo è il punto, naturalmente a costo di stare un po' attenti. Poi un'ultima questione sull'apprendistato. Qua scioperi generali, piazze piene, tutti dicono che vogliono il lavoro di qua di là, poi il canale che dovrebbe essere principe, l'apprendistato, continua a stare nell'angolo, perché anche qua tenteremo di occuparlo. Infine, con il nostro Renato Cifarelli, alla fine il nostro imprenditore che dà sempre l'idea delle cose che continuano a non andare, non si può fare. Sì, è vero che lo Stato non paga, però anche i privati tra loro non scherzano a non pagare, e questo è un altro bel guaio. Ecco, questi sono i temi, li trovate sul sito, ma intanto rapido giro, cosa ci ha fatto incazzare in settimana? Comincia Carlo Alberto. Ma mi ha fatto arrabbiare sicuramente il fatto che il vertice su Italia e Germania è stata la celebrazione dell'ipocrisia, quindi io sono abbastanza arrabbiato, perché io sono molto molto convinto che si debba riprendere il dialogo con la Germania, ma non su queste basi. Quindi sì, sono arrabbiato perché il nostro Presidente della Repubblica ha illuso ancora una volta gli italiani. Ah, Mario. Ma io parlo un po' del mio particolare. Io sono iscritto alla lista pubblicisti dell'Ordine dei Giornalisti e volevo segnalare che ho trovato questi famosi corsi di formazione con i numeri di crediti formativi retroattivamente tagliati, cioè a distanza di un mese e mezzo dall'aver effettuato un corso per il quale erano stati attribuiti 6 crediti. Ora, ho controllato ieri l'altro e i crediti erano diventati 4 di quel Mario, corso. Mario, hanno scoperto che tu non sei stato attento e è quindi probabile. Te li hanno tolti. Forse hanno scoperto che sono uscito anche un attimo prima, per cui diciamo hanno messo 40 giorni. Però diciamo, stanno prendendo l'andazzo del nostro fisco, quindi agiscono retroattivamente. Io inviterei quindi qualcuno dell'Ordine dei Giornalisti, della Lombardia nel caso specifico, a verificare attentamente, perché c'è un limite anche alle buffonate. Grazie. Ecco, che sono, perché questi corsi obbligatori di formazione sono di per loro una bella buffonata. L'Ordine dei Giornalisti, questa è la mia modestissima opinione, ne è un esempio poi al cubo, però io sono per l'abolizione totale dell'Ordine dei Giornalisti. Detto tutto questo, invece Francesca? invece io oggi ho letto che il postino suonerà sempre meno alle nostre porte, perché c'è questa rivoluzione, guarda, in atto. A me dispiace tanto. No, ma tu l'hai collegato al film, il postino che poi ti sbatte. Certo, perché addirittura sarà a giorni alterni nei paesi. Verrà una volta, un giorno sì, un giorno no, perché devono chiaramente diminuire i costi. È evidente che insomma c'è stato un grande calo dei clienti. E questo ti ha fatto arrabbiare? No, mi ha fatto un po' tristezza, sono un po' nostalgica. Giustamente io sono molto e-commerce online, allora, però la busta di carta mi collego, a me mi ha fatto incassare due robe. Una parte della stessa vicenda che hai notato tu su Poste, però c'è un piccolo particolare. Quella roba lì che ti ha colpito è nell'ambito del fatto che ieri lo Stato ha deciso di dare altro mezzo miliardo alle Poste, 535 milioni. Sai perché? Sai perché? E per conseguenza loro infatti tagliano anche il postino, il servizio universale di consegna, perché siccome in Europa c'è stata una condanna apposta per aiuti di Stato sui tassi di remunerazione del deposito alle Poste e al Tesoro, lo Stato sapeva benissimo che stava coprendo d'oro le Poste, condanna, le Poste devono pagare per aiuti di Stato, e chi gli dà i soldi alle Poste per pagare? Lo Stato, il Tesoro, cioè noi. Ecco, questa roba a me ha fatto incazzare, ma una cosa mi ha fatto incazzare poi in maniera infernale. Ma come? Io continuo a difendere in minoranza la riforma Fornero, che purtroppo era tragicamente necessaria, che ha innalzato di botto l'età delle pensioni a tutti dalla sera alla mattina. E poi quando si tenta di mettere mano alle pensioni d'oro dei signori dipendenti funzionari di Camera e Senato, che hanno pensioni d'oro pazzesche rispetto ai contributi che hanno versato, non li versano nemmeno sulle loro diarie, cioè è una roba schifosa, e le loro 300 impugnative sono già finite alla Corte Costituzionale, perché naturalmente, spiegava ieri Repubblica, questo intervento non si può fare. Allora, un paese nel quale io dico che su alcune cose bisogna farlo, e lo si è fatto, abbiamo anche toccato le pensioni di latta, ma quelli d'oro dei funzionari del Parlamento non si possono toccare perché arrivano alla Corte Costituzionale in 5 minuti. A me è un paese che manda fuori, proprio fuori dai gangheri, perché alla gente arriva il messaggio: cacchio, a noi ci toccano quello che vogliono, a loro mai. Quindi tu che tenti di spiegare che alcune cose vanno fatte, perdi ogni credibilità, perché diventi l'amico dei signori alti burocrati di Stato, che in realtà hanno sempre il modo, con i consiglieri di Stato, i signori giudici e i magistrati, cioè coloro che scrivono le norme, coloro che le interpretano, di darsi ragione. Caro Alberto, torto? No, non hai torto, effettivamente questa autoreferenzialità del sistema burocratico statale è un bel problema, fa incazzare tutti i giorni noi sicuramente, ed è un modo per dire che alcuni debiti si pagano e alcuni debiti invece bisognerebbe, secondo qualcuno, non pagarli. Quelli che si pagheranno sempre sono i debiti pensionistici dei nostri burocrati, quelli che non vogliono pagare, i nostri amici greci. Io sono tornato proprio ieri dalla Grecia e devo dire che ho trovato un clima particolarmente teso, e invece qualcuno non li vuole pagare, ed è giusto che ne parliamo oggi, perché se c'è qualcuno che si deve porre il problema di quanto debito deve ancora pagare nelle nuove generazioni, questa è l'Italia. Facciamo come la Grecia, cioè ristrutturiamo, cioè ripudiamo parte del debito. Guardate che si balla molto su questo tema sui mercati, si ballerà molto. Questo, sì, i più vecchi come me lo ricordano, perché questo è il sindaco di Zorba il Greco, straordinario. Comunque, cosa vuol dire? Tentiamo di spiegare innanzitutto, Mario, spieghiamo qual è la questione. Io faccio solo la sintesi politica. Entro il 29 dicembre il governo greco, che è un governo che ha solo 155 seggi di maggioranza nell'attuale Parlamento, 300, ha convocato elezioni anticipate per il capo dello Stato. Ci sono tre scrutini, la maggioranza è qualificata, l'unica speranza per loro, lo fanno apposta, è tentare al terzo scrutinio, quando un po' scende la maggioranza qualificata, di avere 180 voti, però lui deve prenderne 25, che la maggioranza non ha. Perché questo? La minaccia è: o eleggiamo sto capo dello Stato e andiamo avanti, e nel frattempo la Commissione Europea ha dato alla Grecia altri due mesi, per così dire, di tempo, oppure a quel punto le elezioni anticipate diventano automatiche. Nelle elezioni anticipate è in testa il movimento di sinistra, che oramai ha mangiato i voti del vecchio PASOK dei socialisti, cioè Syriza chiede, a quel punto, se vinciamo noi le elezioni anticipate, la ristrutturazione del debito pubblico greco. Questa è la premessa politica che rischia di fare sfuggire di mano all'inizio dell'anno una storia, quella dei paesi ad alto debito nell'euro, in cui noi siamo implicati. Però tecnicamente, Mario, qual è la vera richiesta e che cosa si rischia? Che bella parola, ristrutturazione. Mi ricorda i piastrellisti, sì, esatto, idraulici. Esatto, spiegaci bene. Esatto, infatti la usa spesso anche Grillo, secondo me senza conoscerne il significato. No, Siriza vuole un taglio del 62% del valore del debito che la Grecia ha nei confronti della Troica, praticamente, dei creditori internazionali, dell'Unione Europea, della Banca Centrale Europea e del Fondo Monetario Internazionale. Il punto è che già nel 2012, quando la Merkel, svegliandosi di soprassalto, decise che l'uscita della Grecia dall'euro sarebbe stata una catastrofe con un effetto contagio devastante, la Grecia è stata tenuta dentro per i capelli e hanno avuto un fortissimo allungamento del debito. Quindi la ristrutturazione l'hanno già avuta. C'è già stata sui fondi pubblici, che sono 274 miliardi di euro, quasi la totalità del debito greco, quindi scadenza trentennale e oltre, con un periodo di grazia di 15 anni, durante il quale non si pagano interessi molto bassi, praticamente solo per le prime 100 telefonate. Sembrava una televendita, no, questa cosa qui. Evidentemente non è comunque sostenibile questo debito, perché la Grecia continua a contrarsi, che se ne dica. Quindi a questo punto che cosa succede? Siccome Tsipras... Adesso qualcuno ci farà le pulci dicendo no, come? Hanno sempre... siamo qua per farci fare le pulci, non c'è problema. Esatto. Qual è l'incoerenza? Che Tsipras e Siriza dicono no, noi comunque vogliamo restare nell'euro. Esatto. La verità è che se voi andate a ristrutturare in questa maniera e non ve lo accettano, perché non ve lo accettano, la Banca Centrale Europea non accetterà mai di prendersi perdite miliardarie sui propri asset in titoli greci, è una cosa molto semplice, non avete alternativa che uscire dall'euro. Quindi a quel punto, siccome la democrazia va rispettata, ed è questo su questo siamo d'accordo tutti, bisogna rispettare gli esiti di un popolo, in quel caso emergerà tutta la criticità di scegliere di uscire dall'euro. Sarà un interessantissimo esperimento in vivo, perché si capirà finalmente sul sangue e sulla pelle, esatto, di tanta gente. Non in vitro ma in vivo, non da accademia, non da dibattiti, da editoriali sui giornali, ma in vivo sulla pelle della gente. Però in tutta onestà, quel debito allo stato attuale non è sostenibile. Non è sostenibile. E siccome la storia dell'umanità, da quando esistono debiti e crediti, è fatta di default, è fatta di ristrutturazioni, è fatta anche di giubilei del debito, no? Questo famoso termine, al di là della sua matrice, diciamo, religiosa, eccetera, è chiaro che la Grecia si sta avvicinando a quel tipo di esito. Ti ricordi che quel termine che hai usato, Tremonti, lo rimise, tentò di metterlo. Sì, ma infatti temo che Tremonti sia entrato in me con una modalità alien. Allora, ricordo che la remissione del debito fa parte del cuore teologico del cristianesimo occidentale. Al di là del teologico, no, è biblico, è precristiano. Non tentare di barare, che io difendo l'Antico Testamento. È biblico e viene prima del cristianesimo la remissione del debito. Detto questo, sei appena stato in Grecia? Sì, sono andato ieri, sì. Che aria c'è nella business community? Ma sì, aria buona direi, anzi Buenos Aires. Buenos Aires, io ti avevo alzato la palla. Grazie Oscar. No, la verità è che fammi sintetizzare una cosa che Mario non ha citato, e cioè che Siriza vorrebbe anche acqua e luce gratis. per quelli che non se lo possono permettere, vorrebbe un piano di assunzioni pubbliche, massiccio, e vorrebbe anche le gratifiche di fine anno. Esatto. E l'aumento del 40% del salario minimo e la reintroduzione della gratifica di fine anno. Esatto. Guarda che una marea di italiani andranno in Grecia Mi sembra il posto migliore dove andare. No, il clima in Grecia è molto preoccupato. Devo dire che ho trovato dei politici, in particolare ho parlato con funzionari del governo, molto più consapevoli dei nostri, Oscar. Ho trovato ministri, sottosegretari decisamente più lucidi sul fatto che quel modello di economia non regge e che è necessaria una profonda ristrutturazione. E io da italiano ho fatto un discorso a Confindustria Greca, agli amministratori delegati delle principali aziende greche, sono salito dicendo una faccia, una razza, una crisi. Devo dire che ho preso un grande applauso. Però Mario ha concluso dicendo qui quel problema non si regge e non si paga, non si può pagare tutto. Allora qual è la soluzione se non quella che chiede Siriza? Vi faccio una domanda, vi prego di rispondere. Carlo da Udine, premetto che non sono di economia, ma la domanda è, non avendo noi una moneta sovrana, come facciamo a non pagare poi il debito? Dice Carlo da Udine. Questi sono i problemi, questo mi sembra postulare che il debito si paghi stampando e poi pagando qualcosa. In realtà quei debiti si pagano trasferendo anche risorse reali, non solo carta. Bisognerebbe stare un po' più attenti alla dimensione reale dell'economia, non solo a quella cartacea e quella nominale. Temo che gli italiani continuino a soffrire di illusione monetaria. Comunque il problema esiste sicuramente. sicuramente ed è molto molto serio, perché il sistema così com'è non sta in piedi. Sì, la Grecia ha due problemi. Uno, lo stock di debito, che è decisamente più alto rispetto alla capacità dell'economia di ripagarlo nei prossimi anni, diciamo, prevedibili. Secondo è che quel debito non è stato usato per creare condizioni infrastrutturali di produttività. Cioè, l'economia greca è rimasta un'economia frammentata, basata sulle commodity, basata su la, come dire, produzione di beni tendenzialmente indifferenziati, e con una fortissima presenza dello Stato che è veramente invasiva, che ha, posso dire, diseducato profondamente i greci al rischio. Mica come il nostro. No, ecco, infatti io ho fatto questi due giorni in Grecia a parlare con amministratori delegati e politici, devo dire, mi sembrava di riecheggiare tanti dei discorsi che avevano in Italia. Ora però la questione è: se c'è un problema di debito non ripagabile da un'economia, sapete meglio di me i termini nei quali storicamente, nelle serie storiche, questo ricorre di debiti che sono esistiti nella storia dei secoli, come no? No? Cioè, non è che sono molti i metodi, perché c'è un metodo nominale. È chiaro che inflazione a doppia e tripla cifra fa diminuire in termini reali l'esposizione del debito. Ci sono i fallimenti, ci sono le ristrutturazioni, chiamiamoli dei fallimenti pilotati, perché è esattamente quello che succede alle aziende quando vanno nelle procedure concorsuali e si distingue i diritti della qualità, no, dei creditori. È la stessa cosa quando si parla di ristrutturazione del debito. Per questo chi in questi giorni ha fatto osservazioni, dicendo, anche un collega greco dell'Ulanes che stimabilissimo, che vi invito più spesso nella trasmissione, ha detto: no Gianni, non devi parlare di ripudio del debito greco, la ristrutturazione è la stessa cosa, non è che il problema è come si contrattano queste cose. Allora, siccome molti italiani dicono noi ci arriviamo, siamo nelle stesse condizioni, e il rischio è che in Grecia può partire sui mercati un trenino che ci fa partire lo spread di centinaia di punti in poche settimane, se si avvicinano le elezioni greche e magari vince Syriza, perché diventiamo noi il vero problema dell'Europa, che noi siamo il 17% del PIL dell'Europa, non siamo come la Grecia. Il nostro debito come ammontare valore è quarto, la Germania ci ha un po' superato in termini di valore, non in percentuale sul PIL, ma noi siamo il problema in termini di sostenibilità del debito. Allora la domanda diventa: cosa devono fare i politici italiani? Iniziare a vedere se esistono delle strategie perché anche noi lo ristrutturiamo in maniera contrattata con l'Europa, oppure cosa facciamo, perché l'inflazione non ce la possiamo permettere noi da soli? Parliamone sull'inflazione adesso, lasciamo sentire Mario, però io, diciamo, l'inflazione è il modo più intelligente, un'inflazione giusta, no, per ristrutturare il debito in maniera extra contrattuale, caro Oscar, no? Certo. È evidente che se noi però non la controlliamo più l'inflazione, perché nonostante gli interventi della BCE non c'è modo di fermare, e questo è un tema strutturale, la deflazione derivante dalla globalizzazione e dal fatto che ci sono fattori microeconomici che spingono in basso i prezzi, c'è questo aggiunto problema. Signori, il debito non soltanto è insostenibile, sta crescendo in termini reali il costo del suo servizio, perché è vero che misuriamo lo spread in maniera nominale, ma dovremmo ricordarci che dovremmo sottrargli la componente di deflazione che sta aumentando il costo reale del debito. È verissimo, questo è un fatto quello che stai dicendo, a maggior ragione però il problema resta, perché se noi diciamo agli ascoltatori non fidatevi di chi suona il piffero, cioè di Grillo che vi dice facciamo il referendum e usciamo, auguri a fare il referendum e cambiare la Costituzione intanto, oppure di Salvini che dice ma qual è il problema, usciamo e basta, come se fosse una cosa, uno lo dichiara, poi no, alla gente non spiega i vincoli di capitale da mettere, il fatto che dobbiamo chiudere le banche per un bel po', eccetera eccetera. Allora, se noi diciamo alla gente non fidatevi di questi, però dobbiamo dirgli, a fronte di questo problema del debito, qual è il metodo ragionevole per affrontare il problema, Mario? Credo che non ci sia. Credo che allora però Salvini e Grillo vincono. Ma Salvini, se non ricordo male, ha detto che loro puntano ad un'uscita concordata con altri paesi. Immagino che loro pensino alla Francia, però non è uno scenario né per domani né per dopodomani, no. E soprattutto vorrei che fosse chiaro, vorrei che per loro fosse chiaro, che è difficile mettersi a tavolino, no? Prendere dei politici, metterli a tavolino e dire adesso noi organizziamo l'uscita, no? Usciamo, ci vestiamo bene, noleggiamo uno smoking e usciamo dall'euro. Non è che si possa fare questa cosa. Cioè non si può fare l'uscita concordata. Per quanto riguarda la deflazione, sono d'accordo con quello che diceva Carlo Alberto, nel senso, noi siamo in una tempesta perfetta, nel senso, non solo noi siamo il paese più lento dell'eurozona, il classico fanalino di coda, il paese che continua ad avere segni negativi davanti ai numeri ogni mese e non siamo gufi no, è la realtà che ci gufa, esatto. però noi stiamo veramente finendo in una sorta di rischio di autoavvitamento. Come se ne esca io non lo so, però a me affascina, per usare un blando eufemismo, che il signor Tsipras dica: beh, noi vogliamo la ristrutturazione del debito, però vogliamo restare nell'euro. Sì, no, questa è una cosa. Praticamente vogliamo burro, cannoni e cannoli, come dico io in questi casi. La ristrutturazione, tenete conto che autorevolissimi, lo dico apposta così, autorevolissimi economisti cattedratici italiani, sia pure di scuole diverse, per esempio Lucrezia Reinkling da una parte, scrive da oramai 2 anni: bisogna ristrutturare il debito pubblico italiano. Paolo Savona, che viene da tutt'altra tradizione, ha scritto già nel 2012 un saggio. Lui pensa a una ristrutturazione, diciamo, soft, ma insomma è una ristrutturazione pesante, anche quella che dice il professor Savona. Quindi c'è chi lo declina in chiave politica, c'è chi lo declina in chiave tecnica. Guardate, è un problema grosso. Sentiamo Massimo da Milano come la pensa. Massimo. Sì. Sì. Buongiorno. Senta, quando si parla di appunto ristrutturazione del debito, a me viene in mente l'uscita dall'euro. Coloro che sono eventualmente favorevoli a uscire dall'euro, secondo me sono delle persone che non hanno niente, che non hanno niente da perdere, per cui non hanno case, hanno pochi soldi, mentre coloro i quali hanno lavorato una vita, come è il mio caso e quello di molti, che hanno magari, se hanno una casa, hanno dei quattrini risparmiati e sui quali hanno pagato delle tasse, la cosa non può andare bene, perché si troverebbero con una svalutazione delle case e con una svalutazione dei soldi che hanno, per cui mi sembra una follia. Stiamo parlando in questo inizio di trasmissione, facciamo anche noi come la Grecia, se vince Siriza, cioè chiediamo la ristrutturazione, cioè il default contrattato del debito, e lo chiediamo all'Europa. L'Europa naturalmente non ce la dà, usciamo dall'euro e facciamo queste cose qua. Massimo ha posto proprio questo problema, identificando la questione della ristrutturazione e dell'uscita dall'euro. Tu che dici? No, ma sì, allora sono due cose completamente differenti. La ristrutturazione può avvenire senza bisogno di uscire, però è evidente che forse è meglio associarle in astratto, no? E questo è un altro dei punti su cui si parla. E nel caso italiano noi abbiamo un avanzo primario che dura da moltissimi anni, per cui in astratto noi potremmo anche permetterci, no, di tentare di restare dentro e vedere cosa succede. Però sono temi estremamente complessi, delicati, molto seri, sono temi esistenziali per la nostra generazione, per quelle che verranno dopo. Questo dovrebbe essere chiaro a tutti, anche a quelli che giocano con questo tema, ritenendo di poterne avere dei benefici di breve termine sotto vario tipo. Avanzo primario, lo ricordiamo che in ascolto, significa che se levate dalla spesa pubblica gli oneri, cioè gli interessi che paghiamo sul debito pubblico, sul resto, ecco, totale della spesa e totale delle entrate, le entrate superano il resto della spesa. Pensate, fammelo tradurre in italiano, vuol dire che lo Stato ci chiede molti più soldi di quanto ci restituisce in termini di servizi. Sì, se no sembra che bella parola, avanzo, no. Sì, ancora un po' di più. Però di avanzo primario, no, scusate un secondo, fammi dire una roba liberale, l'avanzo primario è una fregatura per i cittadini, vuol dire che sostanzialmente la generazione corrente sta versando in termini di tasse molto di più, cioè va a deficit di servizi. L'avanzo primario dello Stato è un deficit di servizi per il cittadino. Caro Alberto, ma questi che votano Salvini, che si incazzano con me e mi insultano adesso, questi dicono che la spesa non si può toccare. Che le tasse sono troppe. Allora, se la mettiamo così, i liberali sono loro, capisci? Perché hanno governato 20 anni, ma la spesa e le tasse non le hanno tagliate, e i voti li prendevano per quello. Cazzoni! E voi ancora li prendete sul serio? Aprite gli occhi, imbecilli! Uso termini pesanti, non per mancare di rispetto a chi crede a Matteo Salvini. No, il problema è però che se queste cose non le abbiamo fatte per in 20 anni, noi abbiamo parlato di avanzi primari, 600 miliardi, sangue elevato dai nostri sistemi circolatori di cittadini e produttori, per sentirmi dire adesso che le spese non si possono più toccare. Non si possono toccare. Le dismissioni pubbliche, ma non si possono fare. L'abbiamo visto, continuiamo a dare i soldi ancora a Poste. Allora, ragazzi, alla fine avranno ragione loro, perché il trauma avverrà. Sì. Perché il debito è così ingente rispetto al fatto che non cresciamo, che c'è la deflazione, che abbiamo queste cose asimmetriche dell'euro fatto male, perché è una moneta unica senza mercati che possono fare senza la base comunica fiscale, senza unione non fiscale. Funziona. Allora, io penso che alla fine vinceranno loro, malgrado che siano i responsabili di 20 anni di scelte mancate. Caro Alberto, dov'è che sbaglio? No, non è che sbagli, dobbiamo semplicemente chiarire che questo meccanismo di stato fiscale squilibrato e di unione monetaria e, se volete, anche unione commerciale squilibrate non possono stare in piedi. Lo sappiamo che non possono stare in piedi, quindi il problema non è no euro o euro, ma è quale istituzione civile, fiscale, dobbiamo pensare di costruire nei prossimi anni per lasciare ai nostri figli un paese che funzioni? Questa è la domanda serena, più che dire scusami hanno torto gli altri. È partita la reazione di chi dice non ha governato 20 anni. Certo, 11 su 20 ragazzi c'era il centrodestra. Se voi pensate di ogni volta di raccontare che siete diversi, le responsabilità storiche sono scritte negli anni di chi ha governato, storiche, capite? Voi avete promesso, promesso che mettevate, nel 94 avete promesso che facevate le tasse al 20%, poi 23 e 33. Nel frattempo non le hanno fatte quelle dei vostri partiti, non le hanno fatte. Se quelli che ci credono oggi si sentono fare le pernacchie dietro, è perché i signori partiti di destra, vincendo le elezioni, hanno preso i voti per farle e non le hanno fatte. Insultatemi pure, io lo ripeto fino all'ultimo giorno della mia vita. Comunque non stiamo parlando di questo. No, scusa, leggo adesso un SMS di Diego che dice: la troica ci ammazza, dall'euro non si può uscire, facciamo a tempo a scrivere una letterina a Babbo Natale. Abbiamo anche problemi sulla letterina, porca miseria, perché con questo problema delle poste abbiamo problemi anche a scrivere le lettere, capito? Il burocrate ti direbbe: ma manda una posta certificata elettronica, no? Dopodiché Babbo Natale lo stampa e te lo rimanda via fax per ricevuta, no? Di ritorno. Sentiamo Alessandro da Bologna che dice. Alessandro, buongiorno. Sì. Auguri a tutti intanto. Bravo. Niente, si tratta di questo, ci sono rispetto alla Grecia aspetti che ci assimilano, come quello di non riuscire a uscire dalla crisi con una ripresa, ma stabilizzando la crisi in una sorta di miseria che sta pervadendo tutta l'economia del paese. Però ci distingue un grosso risparmio privato delle famiglie, come dice l'Istat o la Banca d'Italia, adesso non ricordo. Come dicono i numeri, sì. Come dicono i numeri, io temo che la scorciatoia che prenderanno come sempre i nostri politici, più che uscire dall'euro o più che discutere il debito, sia di una bella rasata. Bravo. Sui conti degli italiani. Bravo. Naturalmente, beh, veramente lo hanno già preso, abbiamo più di 50 miliardi di patrimoniali all'anno in questo paese, cioè più di 50. L'anno prossimo ripartono le revisioni degli estimi catastali, che è una parolaccia, ma che vuol dire sostanzialmente che il luogo dove gli italiani hanno ficcato in maniera irresponsabile, devo dirlo, la gran parte dei propri risparmi reali viene usato come bancomat fiscale dallo Stato. Questa è la verità, ovvero ci aumenteranno ulteriormente le tasse sul patrimonio immobiliare e anche su quello dei terreni, perché poi questa è la situazione. Però in caso di evento traumatico, cioè che in Grecia si va a elezioni anticipate, che Syriza vince, anche se per quanto sia un premio di maggioranza consistente bisogna vedere se poi davvero c'è la maggioranza in Parlamento, ma diciamo che mettiamo che facciamo un inizio del 2015 di casino totale, perché l'effetto sui mercati è di far ripartire lo spread. Quando si tratterà di eleggere il successore di Napolitano, anche lì con l'aria che tira, sciopero generale, problemi nel PD, problemi in Forza Italia, Nazareno Corregge, che Dio la mandi buona per eleggere il successore di Napolitano, mettiamo che si crea casino. Quello che io vorrei semplicemente dire a chi è in ascolto, che in caso di trauma, cioè di ristrutturazione del debito, di alternativa secca, altrimenti usciamo anche noi e così via, guardate che siccome per limitare i danni bisogna limitare il più possibile la percentuale di titoli in mani estere, perché sono quelle che poi sul mercato pesano di più, il fatto che poi oramai più del 70% ce l'avete, esatto, voi tra intermediari e famiglie, significa che il danno, cioè la perdita di valore dei titoli, ce lo becchiamo noi, ve lo beccate voi. Cioè, io no, perché di titoli pubblici per scelta mia non ce n'ho, quindi mi dispiace, io non mi beccherò altri danni perché c'è un danno a catena, non è vero, sì, Mario? Sì, assolutamente, questo è molto vero. Diciamo questo, il 70% del debito pubblico italiano è in mano a residenti e questo già lo sappiamo da tempo, era il 50% quando è iniziata la crisi ed è successo quello che è successo. Però 400 miliardi è sono successo, in mano... È successo, Mario, che ce l'hanno fatto ricomprare, ecco, vogliamo dirla tutta, ci hanno detto per favore con la pistola alla tempia adesso ve le ricomprate un bel pezzo. Io non sono del tutto d'accordo, perché non ci hanno obbligato, le banche italiane avevano bisogno di avere una ponderazione finta a zero e si sono comprate il debito pubblico, esatto, italiano, e non potevano fare prestiti. Dai, scusami, le regole di Basilea appunto, II. Appunto, le regole di Basilea dico, II. Ci hanno imposto, per me, come dire, via regole, via modello di compliance, hanno chiesto alle banche italiane, gentilmente con una pistola alla tempia, di riequilibrare le condizioni. Detto questo, che cosa facciamo? Ristrutturiamo il debito. Ipotizziamo di ristrutturare il debito che è in mano alle famiglie, sia attraverso depositi bancari che attraverso fondi comuni di investimento. Aggiungiamoci anche i fondi pensione. Ma possiamo ristrutturare i titoli di Stato che sono nel portafoglio delle banche? perché le banche andrebbero in dissesto un minuto dopo. E a quel punto, caro Alberto, punto dovrebbero essere ricapitalizzate dallo Stato. Con quale denaro? E gli stessi che raccontano all'Italia che bisogna uscire perché l'euro è cattivo sarebbero i ministri del tesoro, che poi dovrebbero rinazionalizzare le banche. Questo è quello che penso io, a dire la verità. Quello è il problema. Comunque io sono veramente in attesa di vedere che cosa farà la Grecia, che cosa faranno i cittadini greci, gli elettori greci, la democrazia greca e Alexis Tsipras, perché dovrà prendere delle decisioni molto rilevanti. Comunque resta il fatto, ragazzi, che la stragrande parte degli italiani, guardate che io secondo me nei sondaggi è così, nella maggioranza, se si facesse il referendum che vuole Grillo, guardate che l'uscita dell'euro domani gli italiani votano, perché sono convinti che il problema siano non i difetti dell'euro, che esistono, ma il problema è che sono gli altri che ci hanno imposto. Se posso dirti, in Grecia abbiamo visto i sondaggi di ieri, proprio il 70% della popolazione è convinta che la causa, okay, della crisi greca sia il memorandum con la Troica. Non l'effetto, è la causa, cioè un'inversione fondamentale dei rapporti causali. Allora ragazzi, questa è la vittoria di chi dice che non si tocca il mostro pubblico italiano, che a quel punto hanno ragione i signori burocrati della Camera a non farsi toccare le loro pensioni d'oro, perché la colpa è dei tedeschi, come è noto, e mica loro hanno nessuna colpa. Cioè, ma vogliamo parlare? A Roma il problema non è l'enorme commissione di pubblico in cose che dovrebbe fare il privato, e miliardi, abbiamo salvato Roma per due volte con Alemanno e con questo sindaco, erano 13 miliardi una volta, altri 2 miliardi e mezzo dopo. Vogliamo dire che la colpa è degli altri? A me questa maniera di ragionare, ma noi siamo bravissimi a dare sempre la colpa agli altri, dai, anche perché stiamo spiegando agli italiani che esiste una soluzione facile in cui non ci rimetteranno, e invece ci rimetterebbero. E come, Carlo Alberto? No, ci stiamo rimettendo per esempio in termini del fatto che il tasso di investimenti privati e pubblici in questo paese è crollato di oltre 20%, quindi quell'avanzo primario in realtà è rinunciare a investire sul futuro, vuol dire detrarre ulteriormente opportunità per i nostri figli. Cioè, rendiamoci conto, no? Questo è il tema. Le patrimoniali non servono per coprire il debito, ma per coprire spese correnti, quindi le decisioni politiche vengono prese oggi, caro Oscar. Affossando il futuro Io dei per questo figli. Mi incazzo, perché non c'è una destra presentabile, perché non ha privatizzato niente, non ha liberalizzato niente, ma neanche devo ancora vederla una destra presentabile in questo paese, quindi francamente va bene, sicuramente. E allora siamo nelle mani di chi dirà alla gente, vengano da populismi di colore diverso o dalla sinistra, perché a sinistra guarda che molta gente la pensa come Siriza, il popolo dello sciopero generale di ieri la pensa come Siriza o no? Certo che sì. Ecco, allora in Italia rassegniamoci vuol dire che andiamo verso un evento traumatico. Portati dalla Grecia. Io non sono rassegnato assolutamente. Fammi dire che non è che la sinistra in sé non sia responsabile di certe scelte, e fammi dire, non è che non debba invece assumersi la responsabilità. Io trovo che, per esempio, la sinistra in Germania 10-15 anni fa è stato, penso, uno dei momenti più alti della storia della democrazia europea, quindi non è vero che certe riforme non possono essere fatte anche da sinistra. Bisogna avere gli attori politici per farle, tu dove li vedi? Io oggi non li vedo e sono disparato. voi avete visto delle riforme in questo paese? Avete visto delle riforme? Solo quando l'acqua arriva oltre la gola, ma voi negli ultimi 10 mesi avete visto delle riforme in questo paese? Perché io non le vedo, io continuo a non vederle. Jobs Act, eccetera, eccetera. Sì, no, infatti, Jobs Act è la punta di un iceberg, nel senso che tutto quello che verrà a valle di quel Jobs Act sarà veramente il sangue. Comunque, dai, sangue speriamo di no. Però, ragazzi, noi vi abbiamo intrattenuto su questo tema. Io poi mi scaldo per la politica, sbaglio, chiedo scusa a chi crede che io stia insultando quello. Non sto insultando nessuno, ragazzi. Fate come volete. Un paese in cui c'è la gara tra tutti a chi le spara più grosse dicendo che è colpa degli altri, secondo me è un paese che si consegna a eventi traumatici, che poi avvengono sul mercato per altre ragioni. Detto questo, abbiamo scelto di aprire questo argomento perché, guardate, ne va della vostra vita, del vostro risparmio, del futuro delle generazioni successive. Tentiamo di credere meno agli imbonitori con il piffero. E abbiamo un ospite in studio aggiuntivo, perché andiamo a un tema che è quello di, insomma, a chiacchiere tutti buoni, a dire che ci vuole più occupazione femminile. Nei fatti, una serqua, come dicono a Roma, una selva in realtà, di ostacoli sempre più elevati per tentare di innalzare l'occupabilità. C'è un problema di web. welfare, c'è un problema anche però culturale, perché quello culturale, insomma, nei maschi italiani è un po' forte, per così dire, eh? Perché c'è anche qualche ascoltatore che, quando abbiamo lanciato il tema stamattina, ci ha subito detto: beh, ma la soluzione è presto fatta, perché innalzare l'occupazione femminile? Raddoppiamo lo stipendio ai maschi, ma le donne devono stare a casa. Ecco, io mi limito, il nostro ascoltatore la pensa così, però... Però abbiamo qui in studio un'altra donna che è venuta qua nella nostra gabbia, Riccarda Zezza, che saluto, che è coautrice di un libro appena uscito che si chiama Mam, la maternità è un master, che rende più forti uomini e donne, ed è anche cofondatrice di uno spazio di coworking che si chiama Piano C, che mi piace molto l'idea del Piano C, perché io sono già arrivata al Piano Z, Piano A, Piano B, Piano C, Piano D per tutta la mia vita, scelte varie, invece Riccarda ha deciso per il piano C. Allora Riccarda, tu hai proprio come interesse massimo cercare di aiutare le donne, e non solo, a ritrovare anche se stesse e in qualche modo trovare lavoro, soprattutto dopo la maternità. Cioè, quando arriva la classica, si vedono i sondaggi, 2 donne su 4 non rientrano al lavoro dopo la maternità, e come dice spesso Carlo Alberto, è una perdita per il paese, no? Perché sono persone anche formate che potrebbero invece rientrare al lavoro. Cosa ne pensi? Infatti il mio interesse è più per il paese che per le donne, nel senso che si è parlato fino ad ora di crisi, abbiamo una buona metà dei talenti e del potenziale che sono rimasti fuori, non hanno deciso quasi nulla fino ad ora, quindi forse fare spazio a questo potenziale potrebbe cambiare un po' di cose, perché sarebbe un'entrata trasversale su tutti i livelli. E invece oggi, come tutte noi abbiamo sperimentato, entrare nel mondo del lavoro è già difficile, già in partenza, quindi già da neolaureate, perché la maternità potenzialmente è sempre lì. E poi diventa sempre più difficile, fino al punto in cui dopo il terzo figlio l'occupazione femminile scende al 30%, mentre l'occupazione maschile sale figlio dopo figlio, quindi l'uomo diventa più affidabile, più performante, e la donna invece evidentemente le succede qualcosa di brutto, una specie di malattia per cui perde competenza, perde non lo so qualcosa, per cui deve uscire dal mondo del lavoro. Come facciamo a cambiare proprio questo preconcetto, questo pregiudizio, se vogliamo? Intanto è chiaro che questa cosa deve cambiare, perché comunque nei prossimi 10 anni entreranno nel mondo del lavoro 1 miliardo di donne, quindi il sistema cambierà, che noi lo vogliamo oppure no, questa è evoluzione. E si può fare molto e non si sta facendo quasi niente in Italia, tant'è vero che continuiamo a perdere posizioni dal punto di vista della partecipazione socio-economica delle donne. Per quanto riguarda noi, abbiamo pensato a innovare i modelli organizzativi, quindi Piano C è un modo diverso di lavorare, è molto semplice. È molto semplice. Io ho fatto 15 anni in azienda, in diverse aziende, sia in Italia che all'estero. Sono tornata in Italia e ho detto: basterebbe poco, però non basta dirlo. E quindi 2 anni fa abbiamo inventato questo spazio di co-working con area co-baby, semplicissimo. Improvvisamente diventa possibile lavorare anche se si sta allattando, padri che vengono da noi e lasciano i bambini nel co-baby e fanno telelavoro, riunioni anche nelle ore in cui le scuole sono chiuse e non bisogna per forza rinunciare magari a formarsi perché si hanno i bambini, basta poco, si innovano i modelli organizzativi. Mi sembra un ottimo punto, vedo che qualche progetto sta partendo, qualche banca italiana, una delle più importanti, proprio appena emesso un piano molto interessante sul co-working. Noi abbiamo bisogno di ripensare profondamente il lavoro bancario, no? Abbiamo bisogno di portare molte più donne in banca, perché ci serve proprio anche quel specifico culturale di ascolto, di attenzione al servizio che proprio solo le donne hanno. E il co-working, che è un modo diverso di pensare all'organizzazione del lavoro in azienda, apre spazi, non tanto posti di lavoro, ma spazi di lavoro, occasioni di lavoro, lo frammenta, lo distribuisce, le toglie le rigidità che sono state uno dei principali vincoli che hanno imposto questo decadimento enorme tra prematernità e postmaternità. Io penso che qualcosa stia succedendo, però bisogna alzare la voce e chiedere a tutte le imprese italiane, a tutte, di fare un progetto di co-working, cioè di ripensare il modo in cui organizzano il lavoro per lasciare più spazio a opportunità di lavoro femminile. Caro Alberto, posso dire una cosa? Qui mi interessa però l'opinione di Riccardo, perché viene dal mondo, cioè, ha lavorato in azienda 15 anni. Quando lo fai al piccolo imprenditore, io penso al piccolo iscritto di Assolombarda, no? Questo ragionamento, loro dicono: beh, bella forza che Intesa lo fa, che una grande banca lo fa. Io il problema è che ho i margini già bassissimi. Se mi chiedi una cosa a cui non sono incentivato fiscalmente, perché non è che lo Stato dice all'azienda che organizza questa diversa maniera di lavorare, eccetera, eccetera, noi la incentiviamo e la premiamo. No, lo Stato non lo fa, o lo fa in maniera proprio così, molto trattenuta. Allora il piccolo imprenditore mi dice: ma io già ho i margini ristretti, l'incentivo a farlo non ce l'ho. Voi avete ragione in termini di cultura e di principio, ma cosa ci guadagno a farlo? Ci sono dei risparmi in termini di costi, sia per le piccole imprese che per le grandi imprese, anche per le start-up. Molte start-up partono già con lo smart working, c'è una proposta di legge sullo smart working che porterebbe anche degli incentivi fiscali. C'è comunque proprio un vantaggio oggettivo, il problema è cambiare la cultura, quindi il problema è cominciare a lavorare per obiettivi. Quindi no? In realtà la testa dei maschi è il vero problema. Se posso, guarda, loro organizzano workshop per aziende apposta per cercare, esatto, di spiegare, giusto, cosa devono cambiare. Ma dacci qualche chicca, non so, facciamo finta di essere noi dei Conti della Belva, una piccola azienduccia anche noi. Che cosa diresti a noi? Quali sono proprio le parole chiave sulle quali bisogna riflettere? Con il cambiamento organizzativo attacchi il sistema dal basso, quindi cerchi di risolvere il problema del tempo e dell'organizzazione. Poi c'è un lavoro che devi fare sulle teste, quindi devi fare un cambiamento a livello mentale e culturale. E quello che noi facciamo con la maternità e un master è questo, cioè smettiamo di considerare la maternità una malattia, state buttando fuori energie, ogni donna che non rientra costa ad un'azienda piccola o grande che sia dai 5.000 ai 10.000 euro solo di gestione del mancato rientro. Ah, certo. Quindi sono soldi, stiamo parlando, okay, di soldi, per non parlare della mancanza di talenti, di idee, di tutto quello che perdi per strada. Quindi bisogna cambiare il punto di vista. È nato così MAM, noi andiamo nelle aziende, per ora soprattutto le grandi, ma esistiamo da un anno e siamo piccoli anche noi, e facciamo dei workshop in cui spieghiamo come effettivamente quello che si impara facendo la mamma e facendo il papà anche, perché funziona anche per i papà se praticano la paternità, sono una serie di competenze. Papà praticante, bellissimo. Sì. Attenzione Oscar, papà praticante, tieni la memoria. Credo che anche più della memoria dovrò tenerlo. Quando pratichi succedono una serie di cose nel tuo cervello a livello di competenze che sono proprio quelle che le aziende piccole e grandi vanno cercando nei propri manager, magari facendogli fare corsi di cucina, corsi di sopravvivenza. Possiamo rimanere d'accordo così che più avanti nel corso della trasmissione ci porti delle esperienze concrete? Perché ho visto che la gente dice cioè bisogna capire come concretamente nelle aziende voi portate il tema. Questo è secondo me la cosa che serve veramente a spiegare che si può cambiare dal basso senza aspettare che lo faccia lo Stato. In questo, ci sono, okay, però dei programmi interessanti, penso a Vodafone, penso a Luxottica, delle belle storie italiane, esatto, di ripensamento. Parte però, hai ragione Riccarda, dalla cultura. Bisogna portare molte più donne dentro ai servizi manageriali. Della Belva. Eccoci qui, tornati in studio alle 11:08, primi Conti della Belva con l'allegra compagnia. Carlo Alberto. Mario. Francesca. Oscar è con noi anche in studio, Riccardo Azzezza, con cui stiamo parlando di questa Piano C. Andate a vedere il sito di Piano C, www.pianoc.it. Uno dei temi poi è importante, è che la maternità è un master, cioè più figli hai, più master hai fatto. Quindi nel mio caso io ho fatto due figli, quindi ho due master, giusto? Esatto. Confermi? Sì. E li prendo e poi li posso rispendere questi master nel mercato del lavoro. Perché? Perché? Perché puoi portare... Oggi no. No. Oggi no. Oggi proprio anzi. Francesca, oggi, no, oggi no. Oggi ci perdo. Però invece... Però ci sono aziende che stanno comprando dei percorsi, per esempio, ti faccio un esempio concreto, Pirelli ha fatto un percorso, ha fatto dei workshop per dei neogenitori, padri e madri, e ci tengo a dire padri, che dopo la nascita dei figli erano magari in confusione o preoccupati per questi nuovi ruoli, perché la genitorialità è un nuovo ruolo. E allora l'azienda con questo corso ha spiegato attraverso MAM come il nuovo ruolo in realtà possa imparare dal vecchio, per cui padri che erano preoccupati su come avrebbero organizzato la loro vita da padri con dei figli. Chissà come mai hanno questa preoccupazione. Hanno visto che in realtà come sono bravi, se sono bravi a organizzarsi sul lavoro, così possono portare questa competenza a casa. No, però scusate, adesso io non voglio parlare. No, io parliamo di te, Oscar. Riccarda, no, per favore. Riccarda, per favore, ti chiedo se è possibile organizzare un piccolo workshop per singolo. Io ne ho bisogno. Ma anche magari. Appunto, però. No, Oscar, ma vi spiego perché? Perché tra poco appunto il problema è che io purtroppo sono un lavoratore autonomo e campo di più clienti che chiedono cose in tempo reale, perché col cavolo il cliente ti paga quando vuole, non lo devo spiegare a voi perché sapete tutti di che cosa stiamo parlando, però glielo devi fare subito, cioè ieri, giorno, notte e così via. Allora la domanda è, voi dite sì, il padre eserciti la sua cosa e si organizzi nel lavoro, ma si organizzi che io come faccio? Questa è la domanda. Io tra pochi giorni dovrò trovarlo al modo, però attualmente io non sono in grado di dire a un cliente no, guardi, adesso io devo esercitare i miei diritti di potestà. La natura si occuperà di te, aumenterà la tua materia grigia e le dosi di dopamina, sì, che ti consentiranno di essere più veloce e più attento. Ci dormirai di meno. La tecnologia, Riccardo, ricordiamo che organizzare una famiglia è un'attività aziendale, serve più management anche nell'economia domestica. Non basta che cambino i processi organizzativi delle imprese, le donne per prime, ma anche gli uomini devono imparare a organizzarsi meglio, e qui la tecnologia sta aiutando tantissimo. Lo vedo con la situazione in Francia, in Inghilterra, nei paesi nordici. Per fortuna anche il governo si sta rendendo conto che bisogna creare un mercato dei servizi di supporto alla maternità e alla paternità responsabile. Governo. Quindi, Carlo, aggiornati, scarica delle app, non so che dire. Cioè, se dovrai fare i regali, per esempio, andrai online, potrai fare tutto con l'e-commerce. È una delle leggi per aiutare le donne a fare meglio il loro mestiere. Un capitolo dedicato a questa roba qua. Non c'è, è inutile che mi dici il governo. Il governo sta facendo niente se non chiacchiere come tutti. Nel Jobs Act, ma non è queste vero. Cose. Ma non santo è vero, Dio. Dai. No, senti, fammi dire, questo governo sicuramente non sta a me difenderlo, però intanto è giusto che facciamo delle distinzioni fra chi ha capacità di ascoltare e chi invece queste cose non le ha mai ascoltate. Ah, ti ascoltano, sì, sì, ho capito. Sì, ah, vabbè, no, questo ascoltano sì. Me, ascoltano, cioè, poi non le fanno, questo è un altro tema. Ecco. Okay, allora però, siamo d'accordo. Però guarda. Fammi dire, io ho passato decenni senza neanche mi ascoltassero. Allora, almeno adesso mi ascolto. Allora siamo d'accordo, almeno ti ascolto. Ma tu, peraltro, c'hai 30 secondi, hai un'idea balzana. Tu vuoi tassare. Sì, io voglio tassare il lavoro domestico. Voglio un'altra tassare tassa. Le sì, sì, perché quei soldi della tassa, che sono mero disincentivo, invece paghiamo più flessibilità e quindi detassiamo il lavoro flessibile femminile in azienda. Questa è la mia tesi, poi ne riparliamo la prossima volta. Sì, no, magari, perché di fronte al fatto che bisogna tassare anche quello io non saprei più che fare. Comunque davvero, Riccardo, prendiamo l'impegno. Sì, ci rivediamo e soprattutto facciamo dei piccoli corsi, ti aggiorniamo piano piano, Oscar, vedrai che nel 2015 ti riserva tantissime sorprese. Ah no, beh sì, le sorprese me le riserva, io voglio vedere quando poi non dormo più e cosa spiego. Dormirai di meno come tutti, però riuscirai lo stesso a lavorare, vedrai. Cambiamo argomento, andiamo a un argomento che riguarda l'esplosione, insomma, la crescita molto sostenuta finalmente anche in Italia degli acquisti in e-commerce. È ovvio che poi le occasioni del calendario aiutano, quindi le festività aiutano, come negli Stati Uniti l'esplosione è il weekend del ringraziamento, no? Che dura fino a lunedì, e quindi c'è una crescita che però è molto molto molto molto significativa, caro Alberto. Oramai qui non siamo più alla nicchia, siamo alla massa anche in Italia. Ma è perché comprare via internet è intelligente, saggio, fa risparmiare, soprattutto posso dire una cosa, un euro speso via internet vale molto di più di un euro speso online, perché produce memoria, dati, tracciabilità, insegna a chi compra e a chi vende qualcosa di più. Comunque la stima è che per Natale, cari ascoltatori, almeno 9, rotti milioni di italiani fanno regali online, quindi aumento a doppia cifra, intorno al 30%, quindi oramai insomma stiamo parlando di miliardi e miliardi e miliardi di roba. Rapido giro in studio per vedere chi è quanto io compro parecchio, spesa online, viaggi, alberghi, libri, pochissima moda perché non ci azzecco mai, ma per il resto devo dire che vado alla grande. Mario? Ma io prevalentemente gli ebook, diciamo, sono la mia spesa preferenziale, diciamo, quindi non è un importo elevato, ecco. No, io devo dire libri tantissimi, ancora più libri fisici che ebook, perché io su Kindle c'ho un problema, proprio non riesco bene con gli occhi, colpa mia, perché devo assolutamente, io non ho più lo spazio per metterli, no, come neppure, ciascuno di noi risolto così, quindi dovremo, però poi ci sono tantissimi viaggi, tantissimi ristoranti, cose eccetera eccetera, si organizza tutto online, quindi io per esempio spendiamo tantissimo a casa, mia moglie l'ho appreso ieri sera, io non lo sapevo, sono cose che preferirei non sapere a volte, su Yux compra giacche, cose eccetera eccetera. Usa la tua carta di credito? L'e-commerce è il primo elemento microeconomico di deflazione, perché siccome mette i prezzi a comparazione, consente un acquisto più intelligente, consente un acquisto corretto anche nel tempo e nello spazio, lo vediamo, al di là del comprare via internet, le decisioni fondamentali ormai sull'allocazione del reddito disponibile alle famiglie italiane più moderne vengono prese di sopra. quindi sta cambiando radicalmente l'atteggiamento degli italiani di fronte a questa straordinaria opportunità organizzativa. Non è un canale, è un modo diverso di allocare il proprio reddito, è un modo intelligente, è la singola più importante opportunità che le famiglie italiane hanno di difendere il proprio potere d'acquisto. Comunque, magari sentiamo l'ingegner Vincenzo su questo. Per capirci, stiamo parlando nel fine settimana di UX con ordine a tutto il mondo, no? Quello che c'è stato per il giorno di ringraziamento, un ordine ogni 2,5 secondi, un capo acquistato ogni secondo. Dalla Cina gli acquisti più costosi, cioè dalla Cina si comprano giubbotti di Alexander McQueen di $6,200 come piovesse e così via. Vendite da mobile più 178% rispetto al 2013. Naturalmente queste sono cifre di raccolta globale, come una cosa anche UX. Veniamo all'Italia. Allora, per parlarne, per darci a capire, a districarci su un po' di numeri da, da sottoporvi, è con noi qua in studio l'ingegner Roberto Liscio. Buongiorno. Buongiorno. Allora, io sono presidente di questa associazione che si chiama Netcom, ma che partecipa anche ad un'associazione europea che si chiama E-commerce Europe, e abbiamo i numeri globali, nel senso che quando parliamo di digitale non possiamo parlare dell'Italia, dobbiamo parlare del mondo, nel senso che noi che compriamo online in Italia compriamo nel mondo e coloro che vendono prodotti digitali li vendono nel mondo, quindi è un altro paese, non ci sono più le frontiere. Allora, se guardiamo ai numeri del mondo, i numeri sono che in questo momento ci sono 1,2 miliardi di persone che nel mondo comprano prodotti online e 2,5 miliardi di persone che prima di comprare un prodotto anche offline guardano cosa succede nell'online, nel senso che l'offline e l'online sono due mondi che sono fortemente interrelati e lo saranno sempre di più. Se guardiamo le cifre europee per scendere nell'imbuto, le due cifre significative sono 560 milioni di europei che cercano online i prodotti e 250 milioni di europei che comprano online. Se scendiamo ancora sull'Italia, abbiamo che in Italia ci sono circa 35 milioni di italiani che cercano prodotti online, che sono quelli che vanno su internet, e siamo arrivati a 16 milioni di italiani che comprano online. Di questi 16 milioni, quindi una cifra molto significativa, peraltro tendo a sottolineare che non ho ancora fatto questa ricerca, la farò nei prossimi giorni, 16 milioni di italiani vogliono dire molte famiglie, perché spesso a casa mia io compro online ma mia moglie non compra online, quindi io sono il rappresentante d'acquisto della famiglia Liscia, il che a significare che siccome in Italia ci sono 22 milioni di famiglie, è probabile, non ho ancora la cifra, che l'80 o il 70%, qui lasciatemi un minimo di gioco, di famiglie italiane abbiano qualcuno che in famiglia compra, il che sta a significare che il fenomeno non è più un fenomeno marginale, come diceva Carlo Alberto, è il fenomeno, ed è il fenomeno che sta trascinando non soltanto l'acquisto online ma l'economia. È dimostrato che le imprese che vendono online hanno migliorato la loro produttività, la loro redditività e anche il loro export. Chi non vende online perde un'opportunità. Chi non compra online perde un'opportunità. Ma non è solo per vendere, Roberto, è per imparare, perché, come dico, ogni transazione è una scambio informativo oltre che uno scambio finanziario, no? L'e-commerce ti fa capire chi compra, se ha selezionato fuori da una gamma di prodotti o se è arrivato direttamente lì, cioè c'è una, come dire, un apprendimento reciproco che l'e-commerce introduce, che migliora i processi organizzativi di chi vende e migliora i processi d'acquisto di chi compra. Ingegnere Carlo Alberto, una domanda di un ascoltatore che però esprime un'obiezione di pancia molto diffusa. Questo ascoltatore ci chiede: sì, è comodo, voi dite che è speso meglio l'euro su internet, però è comodo vendere su internet in Italia, pagare le tasse nei paradisi fiscali, dov'è la concorrenza reale con i negozi fisici che chiudono? Qui c'è un grumo di obiezioni a tutta la cosa, per cui è un bene. Dici: no, disintermediate troppo, pagate le tasse come gli olo delle tecnologici in America e non qua. E che diciamo al commercio di prossimità che chiude per migliaia e migliaia? Posso dare tre risposte, certo, veloci. La prima risposta: i paradisi fiscali sono oggetto di revisione a livello europeo, nel senso che nei prossimi mesi tutte le potenze europee e nazionali stanno lavorando per un'armonizzazione fiscale, e quindi mi aspetto, fra l'altro, a partire dal 1 gennaio, già la difformità che c'è tra le vendite di prodotti fisici, le vendite di prodotti digitali, che avevano una difformità sull'IVA, nel senso che i prodotti fisici pagavano l'IVA sulla base di chi comprava, mentre i prodotti virtuali, digitali, in streaming, pagavano l'IVA sulla base della sorgente, cioè del venditore. Questo andrà a finire, dal 1 gennaio non ci sarà più differenza tra prodotti fisici e prodotti virtuali. Sì, con il fatto che però aumentiamo l'IVA invece che diminuirla, se non ti dispiace. Certo. Uniformiamoci verso le tasse. Guardate che l'armonizzazione fiscale gli Stati la fanno sempre. Grazie, prego. Quindi armonizzazione fiscale, sicuramente. Altro tema fondamentale, è qui devo dare atto. Vuol dire che compriamo gli ebook al 22%? No, l'ebook no. Devo dire che Franceschini qui è stato coraggioso e ha avuto il coraggio di portare anche con la possibilità di avere un'infrazione da parte ma è illegale quello, cioè è facile fare i coraggiosi facendo le cose illegali. Però vedete che stiamo alzando le aliquote IVA verso l'alto, questo è un fatto. Prego, sì, Roberto. Sì, però devo dire che dicevo, armonizzazione fiscale, armonizzazione dell'IVA, e la terza cosa che è molto importante: sbagliano gli operatori della distribuzione fisica a pensare che l'online sia un nemico, per due ordini di motivi. Il primo: l'online crea traffico anche sul mondo fisico, nel senso che se io voglio un prodotto, cosa che ho fatto l'altro ieri, ho guardato un prodotto e l'ho comprato nel negozio. Questo è molto importante. Il secondo molto importante è che ormai i negozi nel mondo, quando si riprogettano tenendo conto del comportamento digitale del consumatore. Certo. Quindi si creano dei negozi. In Inghilterra Debenhams ha ridotto del 50% le superfici dei suoi 500 punti di vendita suoi, non li ha eliminati, ha mantenuto la numerosità, ma ne ha cambiato la natura, li ha fatti diventare punti esperienziali, dove io entro, vedo i prodotti che ci sono, quelli che non ci sono li provo virtualmente e poi decido se andarli a ritirare il giorno dopo nello stesso negozio o mi vengono mandati a casa. Chi non capisce che la trasformazione digitale, e infatti io non parlo più di e-commerce, parlo di digital commerce, la trasformazione digitale deve essere considerata un'opportunità sia del mondo digitale e anche del mondo fisico. Ma la cosa vera è che comunque il consumatore è cambiato, quindi il consumatore digitale è digitale, quindi se il mondo fisico non lo considera come un nuovo comportamento, perde di vista il suo scopo. E quest'anno a Natale, secondo me, cominciamo a capire questa cosa qua. Voglio citare un paio di numeri del tuo osservatorio, Roberto. Il 18% degli acquirenti online di Regali di Natale dichiara che farà meno acquisti rispetto all'anno scorso, ma il 34% degli acquirenti online di Regali di Natale dichiara che farà più acquisti rispetto all'anno scorso. Quindi vuol dire che l'online a tutti gli effetti aumenta le occasioni, la capacità di selezionare, e pur a ridotta disponibilità di reddito, migliora la capacità di selezione e di allocazione dello stesso. Questo è importante, che ci aiuta l'e-commerce a spendere meglio i meno soldi che abbiamo e a indirizzarli verso i merchant, cioè gli esercenti, che più hanno la capacità di catturarli. Per me è uno straordinario motore di meritocrazia di mercato. Scusa se lo dico, ma è importante, perché se ne parla tanto di meritocrazia. La prima meritocrazia è rendere liquido, certo, e confrontabile il mercato. Senza dubbio, ma oltretutto aggiungerei un tema: l'online è ambientale e ecosostenibile, perché si muovono le merci in maniera più organizzata e si muovono meno le persone, le quali persone si muovono quando hanno voglia di muoversi, non perché devono muoversi per andare a ritirare. Vedi il pacco. Vedi che il postino suonerà sempre due volte, ma suonerà perché per portarmi il pacco, esatto, con le mie cose che voglio comprare, infatti, da mangiare. Infatti, certo, i tassi di crescita della logistica di consegna domestica sono forti, sono importanti, perché l'e-commerce provoca questo. Ma poi, insomma, mettiamo anche la parte psicologica: tu compri, poi ti dimentichi, hai speso con la tua bella carta di credito, dopo 20 giorni ti arriva questo pacco meraviglioso e te lo sei già dimenticato, sei contento. Sì. C'è anche tutta quella fase lì, è sempre un regalino che ti arriva inaspettato. E poi io guardo, vedo spesso i bambini sono micidiali, li ho intervistati nei giorni scorsi proprio su questo tema, e devo dire che i bambini ci vanno molto veloci, altro che ebook, ormai vorrebbero comprare tutto, ormai lo sanno, si compra tutto online, lo sanno i bambini di 5-6 anni, ti danno delle risposte che ti lasciano veramente a bocca aperta. Possiamo sentirle? Penso di sì. Voi sapete se si può comprare qualcosa su internet? Sì. Che cosa? Le schedine! No. Le schedine dei Pokémon! Anche tutto. Le carte di Yu-Gi-Oh! Si può comprare tutto quanto. tutto. Anche uno zaino. E chi è che paga poi? La carta di credito. E c'è qualcuno che ha la mamma che fa la spesa online, che compra da mangiare? Sì, io. Cioè, no. Cosa compra? Beh, tante cose. Quasi tutti i tipi di cose che c'è in vendita. E paga con la carta di credito? Boh, non lo so, certe volte in contanti, certe volte con la carta. Anche la mia. Anche la tua? Sì, mio padre invece compra tutto su internet. Ah sì? Tranne da mangiare, i mobili per la montagna li ha comprati. La tua mamma compra mai qualcosa su internet? Boh, non lo so. E tua sorella? Sì. Che cosa? Scarpe, di tutto. Chi mi dice che cos'è internet? È un sito su cui navigare. Con la barca? No, navigare i messaggi, le mail, la posta, le lettere. Sono fantastici, scusate, mi fanno impazzire questi bambini. Beh, si compra di tutto, anche i mobili per la montagna. Fino a quello non sono arrivata io, sono sincera. Però anche io ho comprato di tutto e mi hanno chiesto razzo. No, io i mobili li ho comprati. Li ho comprati. Beh, sono i figli che educano i genitori qua. Perché, questa è una bella notizia. Senza dire, IKEA, tu puoi fare tutto online. Certo. Scusa, adesso non vorrei dire, ma IKEA è da un bel po', per così dire. È vero, è vero. Io il mobile ancora lo voglio vedere. Però mi hanno chiesto un razzo. Il razzo l'ho trovato. Però, su torniamo a parlare di Natale. No, ma guarda che forse lì ti viene la polizia. Torniamo a parlare di Natale, perché lo diceva bene Gianni Liscio prima. Al di là del comprare, internet e l'e-commerce sono fondamentali strumenti di orientamento all'acquisto. Allora, sappiamo che per Natale ormai chiunque deve fare un regalo va a controllare su internet il prezzo, la disponibilità. Vero Roberto, ci puoi spiegare questo fenomeno? Proprio 34 milioni di italiani che cercano su internet prima di comprare. Poi c'è una caduta forte ancora con questi 16-18 milioni che comprano su internet, ma ce n'è ancora una ventina quasi, insomma, che si ostina a usare internet solo come fonte informativa. Questo Natale secondo me cambierà un pochino l'atteggiamento. Ci puoi commentare questo rapporto fra ricerca online e acquisto offline? E questo è molto importante, nel senso che ormai tutti noi, quelli seduti qui attorno a questo desk, ma anche tutti coloro che sono a casa, ma in qualsiasi ora della giornata, questa è la cosa interessante, voi che noi qui siamo a Milano, ma anche a Roma, in metropolitana, in treno, vuol dire, e tra un po' anche in aereo, è evidente che la ricerca di un acquisto è diventato un fenomeno che si prolunga nell'arco della giornata, mentre prima si aveva un desiderio che veniva in qualche misura creato o dalla carta stampata o perché c'era un desiderio che nasceva in una persona, si andava in un negozio in maniera finalizzata e si faceva l'acquisto. Oggi la consapevolezza dell'acquisto si crea durante tutta la giornata, sì, infatti, dalla mattina alle 6, e ci sono delle curve molto interessanti che fanno vedere come nella mattina si cercano delle cose sullo smartphone, verso mezzogiorno si interrompe e si guarda il PC perché si è in ufficio, poi la sera l'acquisto lo si fa davanti al televisore con il tablet. Fra l'altro mio nipote, che ha 3 anni, anziché il tablet è andato al televisore a cercare di sfogliare le pagine, mi ha detto, cioè, questo televisore non funziona. Dire che per fortuna ogni tanto si dorme. Due cifre importanti che ci hai detto: 23% è la quota di chi negli ultimi 6 mesi ha fatto acquisti via app da smartphone o tablet, 15 acquisti su 100 sono originali da mobile, quindi è una quota che sta crescendo, stanno aumentando anche proprio le occasioni. Io penso anche al mobile commerce, che non è semplicemente via mobile, ma in store, no? Le scelte che mentre sei in negozio fai con il supporto dell'e-commerce mobile, quindi questa ibridazione che correttamente dicevi tu, il digitale non è più un canale, è un avverbio modale, cioè è una modalità di organizzazione del rapporto fra domanda e offerta. Questa è la cosa che sta succedendo bene anche in Italia. Assolutamente sì, fra l'altro lo smart, devo dire, ha fatto lo smartphone quello che non ha fatto la famiglia e la scuola, esatto. È stato il più grande educatore, esatto, del mondo lo smartphone, quindi benvenuti smartphone, tant'è che oggi nel mondo, nel pianeta, il 20% degli acquisti, come dicevi tu, si fanno da smartphone. Ma la cosa interessante è che lo smartphone è diventato un oggetto multifunzione, nel senso che non soltanto si cercano i prodotti, si comprano i prodotti, ma si eseguono i pagamenti, tant'è che io ho coniato questo concetto che il pagamento è la sesta P. Finora si parlavano di 5P, del Kotler, allora, del marketing, c'è una sesta P che è il pagamento. Proprio su questo, cioè il ritardo rispetto a paesi e esperienze comparate italiano del pagamento digitale tramite smartphone, faremo una riflessione ad hoc, perché qui c'è un problema che riguarda da una parte il sistema bancario, dall'altra i gestori telefonici, per capirci il regolatore pubblico, ci sono paesi, Spagna così via, che hanno fatto delle scelte anni fa. Questa cosa semplificherebbe enormemente la vita e aumenterebbe, non a far spendere come pensano alcuni, gente che non ha il reddito, nessuno vi induce ad autofregarvi, ma a ottimizzare le curve di spesa per servizi offerti. Questa è la cosa fondamentale. Pensate a un'unificazione, per esempio, che vi consente di comparare quanto costa i parcheggi, ma non solo nella vostra città. Se fate il pendolare nella vostra, in quella in cui andate, avendoli tutti sul telefonino, e a quel punto decidendo dove andare a seconda di una cosa che è lo strumento con cui capite, comparate, e però dovete anche poter pagare attraverso un sistema di gestione dei flussi. Ecco, questa è la cosa su cui torneremo. Intanto buon Natale a tutto, grazie all'ingegneria, e siamo diventati digitali, per fortuna. Io so, dall'anno prossimo inizio a preoccuparmi di un figlio che inizia a comprare per i fatti suoi. Poi vabbè, bisogna sempre mettere le password, questa è la cosa importantissima, perché se no, certo, ti scaricano di tutto. Contributo alla deflazione, usare coupon, voucher e promozioni digitali, che sono una delle aree ingegneristiche che sta esplodendo in questi mesi. Assolutamente, vero? Perché vendere non è soltanto comprare, ma è comprare emozioni, e tutto l'aspetto del couponing e della fedeltà passa attraverso nuovi strumenti. E allora grazie e buon Natale digitale. Grazie a tutti, grazie ingegneristiche. Riflessione in questi minuti, in questo blocchetto, vi do solo un numero: ma com'è che tutti parliamo, più lavoro, meno lavoro, gli scioperi generali, le piazze piene, la riforma, insomma, però poi andiamo a vedere un numero, cioè il canale che dovrebbe essere quello prioritario per i giovani del lavoro. In Germania ci sono 1,5 milioni di apprendisti, in Germania ci sono 1,5 milioni di apprendisti, in Italia meno di un terzo. Perché chiacchieriamo tanto di lavoro e poi il canale che dovrebbe essere quello per l'apprendistato professionalizzante, cioè in cui si entra nel lavoro e si acquisiscono, certo, tra scuola perché e lavoro. Non lo fa la scuola, perché, fammelo dire, perché non lo fa la scuola e neanche l'università. Allora, domanda secca, e con noi Umberto Buratti, ricercatore di ADAPT. Se andate sul sito di ADAPT trovate un mucchio di materiale, ve l'abbiamo anche messo noi nella pagina aprire Radio 24, programmi Conti della Belva, trovate i temi e i documenti, sono tre documenti con tutti i numeri comparati fatti da ADAPT sull'apprendistato. Però la domanda a Umberto Buratti, che ringraziamo ovviamente, buongiorno per essere con noi. Buongiorno. Grazie, buongiorno a voi. Ma perché l'apprendistato, cioè per quale ragione sta nell'angolo? Direi due motivi. Il primo è culturale. Sappiamo che la scuola italiana non ama molto aprirsi alle imprese, e quindi cambiare la metodologia didattica, che è quello che comporta l'apprendistato, trova sempre delle resistenze dall'altra parte. Dall'altra parte però bisogna dire anche delle resistenze da parte delle imprese, del mondo della contrattazione collettiva. L'apprendistato italiano, se si avvicina al modello tedesco, fondamentalmente non ha una contrattazione collettiva di riferimento che aiuta l'imprenditore che vuole assumere un apprendista che è a scuola. Umberto, io ti faccio una domanda. È ovvio che se non ce l'hai, perché i sindacati hanno sempre diffidato e non l'hanno mai organizzata questa cosa, e non ce l'abbiamo nella contrattualistica per questo, o mi sbaglio? Sì, diciamo che i sindacati non sempre hanno amato questo strumento, soprattutto se per questo strumento intendiamo quell'apprendistato che è rivolto ai ragazzi dei 15 ai 25 anni, che possono raggiungere un titolo di studio professionale con questo contratto di apprendistato, oppure se parliamo di apprendistato di alta formazione che riguarda gli universitari fondamentalmente, o percorsi post-universitari. Questi tipi di apprendistato non sono disciplinati da contrattazione collettiva, perché appunto implicano riorganizzare la scuola. Mentre l'apprendistato professionalizzante, che non è l'apprendistato tedesco, cioè l'apprendistato che ti permette di lavorare in azienda, quello sì piace abbastanza alle aziende. Sui 469.000 apprendisti in Italia censiti l'anno scorso, praticamente 465.000 sì, sono apprendisti tutti professionalizzati. Possiamo dirlo che mentre in Germania è vero l'opposto. Possiamo dirlo che anche nella buona scuola, cioè il cantiere della riforma della scuola che arriverà più avanti, in realtà la scelta per il modello tedesco, cioè l'affiancamento scuola impresa per apprendistato, non c'è? Si sente di condividere questo giudizio? Celebolmente se diciamo che il documento della buona scuola è un documento aperto, come tutti i documenti aperti, ognuno ci può leggere un po' quello che vuole. Qui non c'è nulla da fare in realtà, le norme esistono già, esistono da 10 anni, sono state riformate 3 anni fa, quindi si tratta semplicemente di applicare quello che già esiste, non abbiamo bisogno dell'ennesima riforma, perché le riforme, cioè in Italia si vive di riforme dell'apprendistato, poi non lo si applicano, le norme ci sono. Poi il problema è che le riforme dell'apprendistato le facciamo su per graduare gli incentivi o gli disincentivi a seconda delle mode annuali del colore politico del governo in carica, per così dire, questo è il punto, perché l'idea che c'è in una parte del sindacato della sinistra è che poi l'utilizzo dell'apprendistato è una maniera anche per fare i furbi, per avere gli sgravi, purtroppo anche questa componente secondo me ha avuto un peso, lei non crede nel mettere nell'angolo l'apprendistato? Qui siamo a un paradosso, l'apprendistato, quello scolastico, quello che si avvicina al modello tedesco, è fortemente incentivato, pensi al progetto Garanzia Giovani, penso al caso Lombardia, dove vengono messe sul piatto 3.000 euro all'anno per gli apprendisti di primo livello, 6.000 euro all'anno per gli apprendisti di alta formazione, ciononostante le imprese sono titubanti ad assumere perché non conoscono bene lo strumento, da un lato, dall'altro lato trovano sempre delle istituzioni scolastiche che di fronte alla richiesta di modificare, cambiare un regime scolastico consolidato basato sulla classe, la lezione frontale, ovviamente la burocrazia scolastica non è proprio. Sentiamo l'esperienza di Giulia Alessandri Giulia è con noi? Sì, buongiorno. Buongiorno, allora la sua esperienza particolare qual è? Sì, dunque io sono stata assunta con un contratto di apprendistato di alta formazione e ricerca e da quasi 2 anni seguo questo percorso di alternanza tra l'università e il mondo aziendale. E io credo che sia molto, molto importante, nel senso che una volta che uno segue la teoria poi vede la riesce ad applicare nel mondo dell'azienda, diciamo, dell'impresa. Che non si confronta a 27 anni con cos'è che davvero poi un'organizzazione aziendale, come capita a molti solo dopo il percorso terziario. In che tipo di settore è attivo l'impresa che ha attivato questa possibilità? Ristorazione collettiva. Ho ristorazione capito. Collettiva, sì, e quindi credo che la cosa porti un valore anche all'azienda, poi anche perché c'è una figura che viene da un mondo comunque accademico e che porta anche delle idee, degli spunti, dei metodi diversi. In concreto, per chi pensa a un percorso di formazione terziaria, però fatto con l'alternanza, nella sua esperienza è contato di più la presenza nell'accademia, nell'università di qualcuno che era aperto a questo o il collegamento diretto con un'impresa che cercava questa modalità? Bah, guardi, credo che entrambi. Allora entrambi è ancora più improbabile, però diciamo, perché adesso io non vorrei dire, però chiedo al professor Carlo Alberto Maffè quanto nell'università i suoi colleghi sono pronti e aperti a organizzare, perché lì si tratta di introdurre nei dipartimenti, cioè nelle strutture organizzative dell'università, i ponti per fare la formazione terziaria con l'alternanza. Tu che dici? Che sai, la tua esperienza? Vengo da un'esperienza di una università che ha fatto della scuola di management post universitaria, un pezzo del però suo conosci problema. Anche le altre, no, infatti, però appena risalgo su i primi mia università, un po' di rigidità la vedo anche nella mia università, anche se per fortuna è cambiata negli ultimi anni, però effettivamente nel mondo delle università pubbliche l'idea di mettersi al servizio dei processi aziendali è un'idea che non entra nella testa dei miei colleghi, questo è sicuro, e invece dobbiamo fargliela ficcargliela in testa, perché mi spiace, non ho il diritto di tenere in ostaggio anche la meglio gioventù. Umberto Buratti, la responsabilità anche del corpo accademico dell'università pubblica è stato un fenomeno di freno su questo o no? Sì, diciamo che anche qui, se partiamo dalla legge Biagi, la legge Biagi parlava nel 2003 di aprire le università alle ottiche di placement, cioè le università devono pubblicare gratuitamente i propri CV, i CV dei propri studenti, avere un ufficio placement in contatto diretto con le imprese, organizzare con le imprese i percorsi didattici. Dopo 11 anni i primi si esce un po' dalla fase sperimentale proprio in questo periodo, mi viene in mente il caso del Politecnico di Torino che sta facendo percorsi di master o l'Università di Trieste, il caso stesso di ADAPT che è un po' una piccola eccellenza a livello italiano con un dottorato in collaborazione con l'Università di Bergamo che in questo momento ha 16 apprendisti di alta formazione che fanno il percorso sullo stile della dottoressa Alessandri, ci sono delle realtà. Il problema è che non si esce mai dalla logica di sperimentazione. Esattamente. Perché anche noi, bravo, perché io vedo l'esperienza su Lombarda. Noi nell'ultimo anno siamo riusciti a mobilitare molte di più imprese, come dice lei, senza bisogno di riforme. Le norme ci sono per ampliare la possibilità sia dell'apprendistato alla tedesca nella formazione secondaria, sia poi ovviamente fare le fondazioni ITS e fare la formazione terziaria alternata. Il problema è che diventano sempre solo numeri troppo ristretti. Abbiamo visto l'e-commerce, abbiamo visto il problema del come considerare i figli un master, l'apprendistato trascurato, e come sapete concludiamo sempre con una specie di appuntamento fisso con il nostro Renato Cifarelli, che però non c'è ancora, mi dicono, ed è appuntamento fisso con non si può fare. Mentre ci colleghiamo con Renato, abbiamo Teresa da Verona. Però Teresa, ci sei? Sì, buongiorno. Buongiorno, allora dici. Salve, buongiorno. Io vorrei insomma porre una riflessione, dato che mi occupo di diritto del lavoro in uno studio di consulenza del lavoro, sì, e ho a che fare con tante aziende, soprattutto di piccole dimensioni. In effetti mi rendo conto che è uno strumento che vorrebbero utilizzare, dato anche lo sgravio contributivo carico azienda, soprattutto con la legge finanziaria. Stiamo parlando di formazione qua, eh? Formazione. Esatto. Esatto, e a mio avviso è proprio il problema che in un certo qual modo limita le aziende ad assumere con un contratto di apprendistato, è proprio perché la formazione non viene bene formata, cioè nel senso che la Regione Veneto impone una formazione sullo sviluppo delle competenze trasversali, tutti i ragazzi che vanno a fare la formazione si annoiano, non, allora, non hanno Teresa, bagaglio. No, ho capito il problema, ti risposto poi in due pillole. Distinguiamo da regione a regione gli ordinamenti e l'offerta di formazione, ma anche gli ordinamenti di governance della formazione regionale sono diversissimi da regione a regione, con standard di qualità e impostazioni di CV completamente diversi. L'apprendistato purtroppo subisce l'effetto negativo di quello che dici, però sono due cose abbastanza diverse. Io sono dell'idea che nel 90% dei casi dei sistemi che conosco, cioè in 17 sistemi regionali su 20, la formazione regionale va scardinata, perché è un luogo di malaffare al servizio di chi ci lavora e di potentati che la controllano. E poi ci sarebbe molto da fare mettendo molti privati con un pubblico capace solo di fare governance del sistema degli accreditamenti. Questa è la mia esperienza personale. L'apprendistato è penalizzato anche per questo. Però ne riparliamo della formazione, perché è un problema ampio, è molto grosso. Allora, Renato, sei con noi? Sì, buongiorno, avevamo problemi di linea. Siamo come sempre, siamo un paese iperdigitalizzato, come è noto. Quindi. No, lo dicevo ridacchiando con Carlo Alberto, che mi dà dell'ottocentesco. Senti, Renato, allora, questa volta che cos'è che non si può fare? Non può continuare ad andare avanti come va? Che problema è? No, allora, è dicembre, eh? Cioè Natale... probabilmente sarà il freddo, c'è una rarefazione dei pagamenti, cioè cominciano a sparire, non lo so, probabilmente la gente ha bisogno di soldi per pagare i regali di Natale. Già. Sai che la pubblica amministrazione ormai da qualche anno smette di pagare a ottobre, perché avendo il bilancio fatto per cassa, quando finiscono i soldi smettono di pagare e il problema l'hanno risolto. Ma adesso con la crisi quello che succede è che ci sono anche tante aziende sane, lasciamo perdere chi purtroppo non ha veramente i soldi, che con la scusa della crisi non pagano. Fanno i furbi. Verso fine anno fanno i furbetti. Cioè i privati con i propri fornitori. Privati con i privati, ed è una cosa pessima, cioè una cosa da masochisti, perché è evidente che colpisce una catena, la catena delle aziende, e quindi questa è una cosa che poi alla fine ti torna indietro, perché poi tutti siamo clienti e fornitori all'interno del sistema, no? E quindi è una cosa pessima. Oltretutto, per quello che, per come la penso io, è una cosa che fanno moltissimo le grandi aziende, quelle molto grandi e spesso che non hanno sicuramente problemi di cassa, e dovrebbe essere invece esattamente l'opposto. Dovrebbero loro dare il buon esempio, per così dire. Allora ti spiego, a questo proposito, io sono particolarmente fiero di una cosa che è avvenuta questo anno. A Lombarda, il presidente, Gianfelice Rocca, quando stava un anno fa di avviare i programmi della sua presidenza, gli abbiamo portato questa idea di uno strumento che esiste in Gran Bretagna, si chiama il Prompt Payment Code, cioè un codice di pagamenti trasparenti, però fatti dal basso, dalle imprese, che ne fanno uno strumento pubblico di etica, un impegno pubblico che ciascuno poi, se non è rispettato, può smentire e ha influenze sul titolo. Abbiamo messo in piedi intorno a questa norma, studiata con la Bocconi, l'abbiamo adattata all'Italia, l'hanno firmata più di 200 grandi imprese di Assolombarda. Queste 200 grandi imprese di Assolombarda da sole hanno 63 miliardi di euro di pagamenti a oltre 200.000 imprese fornitrici e clienti, e abbiamo in un anno, nei termini di legge, cioè 30 giorni, questi si sono impegnati e noi faremo i cani da guardia. Questa roba da sola è il doppio di ciò che lo Stato ha pagato alle imprese private italiane con 32 miliardi e mezzo. Ma vedi, se dessimo un prezzo al ritardo, invece che parlare soltanto di buona volontà o di buon esempio, io credo al sistema degli incentivi razionali. Noi abbiamo fatto un sistema di Basilea che penalizza il lato patrimoniale delle imprese, invece dovremmo estendere quei criteri, e lo chiedo anche alle banche, lo sto facendo con le banche, con i monitoraggi del sistema di procurement, penalizzare e viceversa premiare le aziende che rispettano il sistema di pagamento. Chi non rispetta il sistema di pagamento introduce un'esternalità negativa, certo, nel sistema, sta punito, producendo, no, semplicemente gli vanno caricati interessi maggiori. Viceversa, chi rispetta i pagamenti proprio deve così beneficiare. Quindi per me è un tema di prezzo del denaro. Chi non rispetta il sistema di pagamenti sta danneggiando l'economia nel suo complesso. Per tutti, a tutti quanti. Naturalmente, fatto salvo il caso poi di certificare chi ha problemi, proprio la liquidità non ce l'ha e la cassa non ce l'ha perché sta volendo. Però tanti fanno i furbi. Ma Renato, in realtà come si fa quando una grande impresa non ti paga? Cioè a te che ti è capitato, in quel caso che fai? Ma no, noi per fortuna lavoriamo 95% estero e quindi questi problemi quasi sempre non ce li abbiamo. Anche se questa settimana dalla Costa d'Avorio mi hanno detto che non potevano pagarmi perché avevano finito i budget di pagamento previsti per quest'anno, ma è una multinazionale francese. E quindi sono quelle cose un po' strane, cioè. Ma no, ma a quel punto io penso che se uno può, se gli capita una grande impresa che non ti paga, dell'anno prossimo non lavori più per lui, o no? Ma sai, poi lì il problema delle piccole aziende è sempre il solito. Molto spesso tu hai un cliente grandissimo che non ti paga e che ti dice: se non mi dai la roba, io anche quello che ti devo non te lo devo, quindi ci metto due volte, ci rimetto. In un periodo come questo non è facile rinunciare ai clienti. No, ci mancherebbe. Quindi a maggior ragione, Carlo Alberto, bisogna adattare dal basso delle formule di impegno etico, ma con incentivi disincentivi monetari. No, per me le banche devono entrare in questo percorso, intanto perché la regolarità dei sistemi di pagamenti consente a loro un migliore monitoraggio dei flussi, e siccome non possiamo limitarci a studiare i bilanci a fine anno, ma dobbiamo studiare i flussi in real time, e il dialogo fra banca e impresa deve essere un dialogo digitale, caro liberale ottocentesco, e non analogico. Ecco. Dillo allo Stato e al governo che difende. Ma che mi frega lo Stato e il governo? Ma, un tema tra privati, ma figurati. Il digitale disintermedia lo Stato, non potrà mai farlo. Il tuo amichetto Renzi non lo farà mai. Mai lo farà. Ma vedremo. Intanto vi ha invitato la settimana prossima a Bruxelles a presentare Italia Digitale, e quasi lo ci vado. No, ma no, devi andare, ma ci mancherebbe. Questo è uno scherzo per farvi capire che Conte la Belva non è vero che la pensiamo allo stesso modo. No. La pensiamo tutti allo stesso modo, ma con diverse gradazioni di durezza. 50 comunque sfumature di grigio digitale. Andiamo verso Natale, ragazzi. Salutiamo tutti, continuate con Radio 24. Ci sentiamo sabato prossimo. Ci siamo anche sabato prossimo in diretta, non mancate. Fratelli d'Italia, l'Italia le vesta, dai tempi di Scipio finita è la festa, stringiamoci a corte l'immagine.